24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano le reazioni europee al nuovo governo italiano che il premier in pectore Mario Monti si appresta a varare. In Grecia intanto il neo premier Papademos promette una forte diminuzione del deficit di bilancio. Oggi ci occuperemo anche dell'atteggiamento europeo verso Siria e Iran. La pazienza dei 27 sembra alla fine. E vi aggiorneremo pure sui progressi della Serbia nel percorso di avvicinamento all'Europa. Europa mantiene dunque massima vigilanza sull'Italia dopo l'investitura di Mario Monti a primo ministro. Ieri telefonate tra lo stesso Monti e i leader comunitari, in primis il presidente del Consiglio Herman Van Rompuy e quello della Commissione Josep Barroso. Il portavoce del commissario all'economia Olli Rehn, Altafaj Tardio, ha precisato che il premier in pectore nel suo discorso ha chiarito fin da subito la necessità di rigore ed equilibrio tra consolidamento di bilancio e riforme strutturali. Sempre da Bruxelles è giunta una prima valutazione sulle risposte dell'Italia al questionario europeo, complete e puntuali. Ora il testo è al vaglio dei servizi della Commissione, che stenderà un rapporto in vista dell'Eurogruppo del 29 di novembre. Dicevamo di una Commissione che non intende mollare la presa sul bel paese. L'attuale missione Europa BCE, tuttora a Roma fino a nuovo ordine, non sarà l'unica. Ad essa seguirà un monitoraggio regolare degli impegni presi dal governo. Così il portavoce di Olli Rehn. La palla insomma è ora nel campo dell'Italia. Il messaggio di Bruxelles è chiaro. Il nuovo governo deve varare le misure da mettere in campo alla luce di previsioni di crescita preoccupanti. Per intanto Barroso invia una lettera di incoraggiamento all'ex commissario Monti. Sono certo che saprà affrontare con successo le difficoltà economiche che l'Italia attraversa in questo momento affinché il paese possa al più presto tornare ad essere il grande protagonista dell'Europa comunitaria che è sempre stato nel passato. Dall'Italia alla Grecia, il primo ministro ellenico Lucas Papademos ha affermato che il deficit di bilancio del suo paese si ridurrà a 9 punti del PIL per la fine del 2011. Una recessione in Europa avrebbe un impatto sulla crescita e sull'occupazione americana, così il presidente Barack Obama. Il Fondo Monetario Internazionale è preoccupato per gli attuali rischi che gravano sull'economia globale. Senza una soluzione della crisi dell'eurozona, l'economia rischia di scivolare in una spirale negativa di calo della fiducia, crescita debole e poca occupazione, così il direttore generale dell'FMI, Christine Lagarde. Seduta nervosa intanto ieri per le borse europee e per Piazza Affari, l'effetto Monti è durato solamente poche ore e non è bastato a mettere a tacere i timori sul debito del bel paese. I mercati ora attendono la composizione dell'esecutivo italiano. Il FTSE MIB ha chiuso in calo dell'1,99%, mentre lo spread tra i titoli italiano e tedesco si è riportato in area 490 punti. Seduta nervosa per le borse europee e per Piazza Affari. L'effetto Monti è durato solamente poche ore e non è bastato a mettere a tacere i timori sul debito del bel paese. I mercati attendono a questo punto la composizione dell'esecutivo italiano. Così il FTSE MIB ha chiuso in calo dell'1,99%, mentre lo spread si è riportato in area a 490 punti base. Sono andate male le banche, in particolare Unicredit, -6,1%, nel giorno in cui i vertici dell'istituto hanno annunciato un aumento di capitale da 7,5 miliardi e una perdita nel terzo trimestre da 10,6 miliardi di euro, perdita dovuta essenzialmente a svalutazioni straordinarie. Sono però andate in controtendenza le azioni di MPS, rimbalzate dell'1,5% dopo i violenti scivoloni delle ultime settimane. La prospettiva di una recessione è resa più plausibile dal brutto dato sulla produzione industriale europea calata del 2% lo scorso settembre, ha spinto giù le azioni considerate più legate al ciclo economico, come ad esempio Fiat Industrial -5,1%, Fiat S.p.A. -2,3% o Prysmian -3,2%. La trimestrale inferiore alle attese ha inoltre fatto precipitare le quotazioni di Campari, -7%. Si sono invece salvate dalle vendite le Finmeccanica, +0,45%, nell'attesa dei conti trimestrali annunciati a borsa chiusa. Tods ha guadagnato lo 0,9%, sempre sull'onda della buona trimestrale annunciata la scorsa settimana. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ieri è stata anche la giornata del vertice dei ministri degli esteri europei, tanti fronti caldi aperti. I paesi comunitari si sono detti pronti a rafforzare le sanzioni contro l'Iran per arginare le sue ambizioni nucleari, pur divergendo sull'opportunità di un'azione militare. Un rimedio peggiore del male, così ha commentato il ministro degli esteri francese Alain Juppé, e la Gran Bretagna ritiene invece che non si debba escludere alcuna opzione riguardo all'Iran, mentre la Germania si dice assolutamente contraria a considerare l'opzione delle armi. L'Unione Europea manda intanto un nuovo segnale anche alla Siria, sia allungando con altri 18 nomi la lista delle persone a cui sono stati congelati i beni e visti, sia sospendendo tutte le linee di credito della BEI. L'Europa infine si è impegnata a proseguire il suo aiuto all'Afghanistan tramite un accordo di partenariato. I ministri dei 27 paesi comunitari hanno dato mandato all'alto rappresentante Catherine Ashton di negoziare con Kabul un accordo per il partenariato e lo sviluppo che coprirà svariati settori. La crisi in Siria e i progetti missilistici americani nel Mare del Nord mettono intanto nuovamente in rotta di collisione Mosca e Washington. Sull'Iran siamo di fronte a una campagna orchestrata contro il programma nucleare per alimentare la tensione. Nei confronti della Siria, invece, la decisione della Lega Araba di sospendere Damasco è una mossa premeditata, poco trasparente e sbagliata. Mosca all'attacco sul fronte diplomatico e dietro le parole del potente ministro degli esteri Sergei Lavrov, il bersaglio è Washington, che spinge da un lato sul fronte arabo, dall'altro alimenta posizioni che arrivano a far dire al ministro degli esteri britannico William Hague che non esclude interventi militari contro Teheran. Germania e Francia tirano subito il freno a mano su ipotesi incendiarie, ma per Mosca le spine del dialogo Obama-Medvedev sono ormai numerose. Forse la più acuminata riguarda i piani americani di difesa antimissile che porterebbero il dispositivo bellico americano alle porte di San Pietroburgo. Il dossier dello scudo ha già avvelenato i rapporti USA-Russia negli ultimi anni del secondo mandato di Putin, scaduto nel 2008. E ora, nella prospettiva del ritorno di Vladimir Putin al Cremlino, cosa data praticamente certa dopo le elezioni della primavera 2012, minaccia di confermarsi motivo di serio attrito tra le due potenze nucleari. Gigi Donnelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Meno della metà dei serbi, parliamo del 47,4%, è favorevole all'adesione del loro paese all'Unione Europea rispetto al 37,5% dei contrari. E quanto emerge da un sondaggio condotto nelle ultime settimane dalla rivista Nuovo Pensiero Politico Serbo, Belgrado, dopo l'ingresso della Croazia previsto per il 2013, è il prossimo candidato balcanico all'Unione Europea, ma deve prima risolvere il nodo del Kosovo. Abbiamo sentito il direttore generale all'allargamento della Commissione Europea, Stefano Sannino, sui costi e i benefici di un processo che avanza nonostante la crisi. L'allargamento favorisce la stabilità, la sicurezza e la prosperità europea. Tutti questi paesi sono molto vicini a noi, sono legati a noi economicamente, politicamente, socialmente, sono già integrati in qualche misura nel sistema europeo. Farli diventare membri dell'Unione Europea semplicemente aumenta il loro impegno e la loro responsabilità per partecipare allo sviluppo di politiche che siano coerenti con quelle dell'Unione Europea. E nello stesso tempo credo che il costo di non allargamento potrebbe essere molto più significativo e molto più importante in termini di eventuali crisi di instabilità che si possano generare. Caduti una serie di pregiudizi legati anche ai criminali di guerra. Belgrado quando nell'Unione? E purtroppo la risposta non è così diretta ed immediata. Se risolvono i problemi con il Kosovo e quindi se si avvia un processo di normalizzazione tra Belgrado e Pristina, la Serbia potrebbe iniziare i negoziati di adesione già l'anno prossimo. Ma, ripeto, c'è un elemento di condizionalità politica ancora molto forte che deve essere risolto. Se così fosse, io sono convinto che la Serbia potrà procedere molto rapidamente perché ha una struttura amministrativa estremamente sviluppata e una capacità negoziale molto, molto buona. Per cui la Serbia potrebbe molto rapidamente fare dei passi in avanti per diventare membro dell'Unione Europea. I ministri dell'agricoltura europei hanno raggiunto ieri a Bruxelles un accordo politico per dare il via libera al programma alimentare europeo per gli anni 2012-2013. Gli aiuti saranno destinati ai più indigenti e alle famiglie in difficoltà. E la Russia fa ripartire i suoi lanci con equipaggio. La navicella Soyuz è già entrata regolarmente in orbita. Tre uomini sono decollati oggi alle 5:14 ora italiana a bordo di una navetta Soyuz TMA. Si tratta di due cosmonauti russi, il comandante della navetta Skaplerov e l'ingegnere di bordo Ivanishin, e di un astronauta statunitense il veterano Daniel Burbank. Il lancio, il primo di un equipaggio umano nell'era del dopo shuttle, è avvenuto dalla base russa di Baikonur in Kazakistan sotto un'abbondante nevicata e porterà il nuovo equipaggio sulla stazione spaziale internazionale, dove verranno sostituiti altri 3 cosmonauti. L'ultimo lancio di un equipaggio era avvenuto in giugno. L'aggancio alla stazione spaziale internazionale è previsto per dopodomani alle 6:33 italiane. Il volo sarebbe già dovuto partire il 22 settembre, ma è stato rinviato in seguito al fallimento del lancio della navetta Cargo Progress del 24 agosto scorso, precipitata in Siberia per un guasto al vettore. Un incidente che ha messo in discussione la tenuta della Soyuz e che è stato attribuito a negligenze, ha privato di approvvigionamenti la stazione spaziale internazionale ed ha causato il rinvio di 2 mesi del nuovo lancio. La capsula Soyuz è entrata regolarmente in orbita. Tutto è normale e ci sentiamo bene, ha dichiarato l'equipaggio alla torre di controllo. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per il nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.